Zolt. Fulminati in azienda. Senti Font, penso sia giunto il momento di prendere il coraggio e riferire a sul pezzo gli effetti prodotti dal progetto The Pink Life, sì. Per ritrovare un equilibrio tra vita privata e vita professionale. Sì, Schedule, è giunto il momento, ma togli dalla voce quella rabbia, quella vela di rancore, quella noce di nevrosi. Non senti che si sente un timore? Hai ragione. Toglielo. È che i risultati sono davvero pesanti. No. Pesanti no, devi dire profondi. Ricordati, devi scegliere le parole, usare il giusto tono. Con il giusto tono si può dire tutto. Sono le tecniche della comunicazione, del discorso persuasivo. Sì, ho capito. Ma gli dico tutto? Tutto. Quote rosa, asilo nido, sì. Retribuzioni uguali agli uomini. Tutto, ma bene. Con l'eleganza, ricordati, hai gli strumenti. Va bene. Hai la tecnica. Va bene, ce la posso fare? Ce la Io puoi fare. Ho le tecniche, ho gli strumenti. Sì, e poi ricordati. Ricorda, arrotonda le O, chiudi le E, lascia spazio alle A, abbandona le I e abolisci le U, sono obsolete. Marco, non ci siamo capiti. No, non vedo il problema, c'è Trifuga. E te credo che non vedi, è che non sai che succede nei corridoi, che se scrive a gente, che se sussurra in mensa. Vabbè, ma allora parla, esprimiti, è 2 ore che sei qui, non hai detto ancora una frase di senso compiuto, hai grugnito. E donne, Marco, e donne, tutte le donne da azienda hanno frainteso. Ma che cosa, che Hanno capito che il progetto The Pink Life è un progetto per valorizzare il ruolo da donna dentro l'azienda. Ma perché, scusa, non sono valorizzate? E poi, ma com'è che capiscono sempre quello che vogliono loro? Ma Marco, The Pink Life, la vita rosa, che dovevano pensare, eh? Insomma, se sta a mobilità mezza azienda, tutte le donne. Beh, mezza azienda adesso, non esageriamo. Vabbè, per dire, un terzo d'azienda. Ancora, mi sembra che esageri. Quanto, non so, un quarto d'azienda. Vabbè, ma quante sono ste donne dentro sta azienda? Ma lo sai che non me lo sono mai chiesto? Comunque troppe. Allora Marco, intanto ci tengo a dirti che sono qui non in quanto rappresentante dell'ufficio delle risorse umane, neanche in quanto donna, sì, bensì... Scusami Schedula, ma cosa hai bevuto? Hai fatto un'introduzione che neanche al Circo Togni. Tra l'altro Marco ti aveva chiamata per avere un'informazione sul numero delle donne. Sì, ma io sono qui per riferire... Bravo che... Centri, bravo, che la memoria è breve, la mia sta andando a rotoli. No, scusa Schedula, la domanda è, spannometricamente, quante donne ci sono in azienda? Fatto 100 il totale. Appunto Marco, appunto, uno dei motivi per cui ti stavo dicendo che sono qui non come ufficio delle risorse umane, non neanche ho capito, come ma donna. Sei qui, non sei qui, ho capito Schedula. Non hai capito, vuoi sapere quante sono le donne? Sì, insomma. Prima di rispondere vorrei chiarire che sono qui come portavoce del progetto di Pink Life. Rappresento tutte le donne di questa azienda, che sono il 17% della popolazione totale. Schedula, sei arrivata al dunque, il 17% della popolazione totale. Ma lo sai che credevo di più? Ma sembrate di più, Schedula. Dicevo, le donne di questa azienda, in nome del progetto di Pink Life, sarebbero lieti. Ma scusa, ma Centrifuga, scusami Schedula, ma anche a te non ti sembravano di più? Fanno un tale casino. Sarebbero lieti di avere le quote rosa, ossia tanti uomini, tante donne, e prendere lo stesso stipendio dei colleghi Schedula, maschi. Scusami. Avere un asilo nido aziendale, avere orario di lavoro più flessibile. Schedula, la domanda è, ma tu tieni famiglia? No. Hai dei figli? Nemmeno. Ti senti sottopagata? Personalmente direi di no, però... E allora, che problema c'è? Ascoltami, ma Centrifugo, anche tu non trovi che oggi certi schemi siano superati? Trovo. Le manager del futuro amano le sfide, si forgiano nelle difficoltà. Esatto. È l'evoluzione della specie. Guarda che se fosse stato facile, Schedula, voi vi sareste annoiate, sareste ancora a casa a far la calza. Ma come a casa? Ma noi abbiamo gli strumenti. Sì, ma come li usate? Ecco, come li usano questi strumenti? Allora, te lo dico io. Ascoltami, Schedula. Volete raggiungere veramente la parità? Imparate a giocare alla PlayStation. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.